me, come poi canta lei e poi dovrei tipo semi cantare io anche con lei. Era proprio da divertirsi. Marcello però se quella canzone esce figa un po'. Spacca. Come ce l'ho in testa io spacca, poi non lo so se riuscivo a fare. Questa ragazza calcola è bravissima a cantare. No, le canzoni. Alla prima deve fare due tracce. Perché si accavalano due parole. Ti ricordi, no? Dell'evoluzione. Vabbè, venga. La prova prima fa la prova un po'. Perché un amore finisce. Che cazzo? E siamo fermi, sennò. Tanto ha sentito bene. Sì, si sente. Però lui sente un po' la voce un po' più bassa. Infatti, tu diciamo un po' di più tu. Perché se noi famo sotto. Così si sente proprio il suono che. Basta che alzi un po' la voce, è sotto timido. Ah, stai registrando. Oh, bella frutta, a posto? Oh, bella, sì, tu? Ah, non c'è male. Senti, te lo chiedo, ma perché mi vieni a ballare pop insieme a noi? Ma che ferma, dai, mi parete poche, ma tutti colorati, ma che è? Poco, ma che cazzo sei Dio? Ma è arrivato quello che balla elettro con quegli occhialetti, mi pare un coglione, mi pare. Invece sono fashion, no? Ma che te fashion? Ma vai con gli amici tuoi a Pariolini a sto punto. Ma che cazzo c'entra Pariolini, oh? Mo sto termine Pariolini mi fate sbroccavo. Mo io non so padrone, andiamo a comprare un paio di jeans che costano 300 o 400 euro. Ma come cazzo te pare? A te non so chi ti ha chiamato, comunque boh, vabbè. Che sudata. Poi ci devo ridire delle frasi a parte con qualche ferro. Come al solito, dai, ormai. Se mi rivolgo verso uno specchio, non vedo solo il mio riflesso. Scavo più a fondo, mi guardo dentro, afferro il mio mondo, me lo tengo stretto. Beh, due volte. Non lo so. Questo qua non è che ci puoi fare qui cantato, eh. Nei miei pensieri a volte piango se ripenso a come era ieri. No, quante ne avevo? No, vabbè, se c'è qualche idea dimmi, però. Che cazzo è? Oh, a bello. Dove è rimasta là dentro? Non è possibile, ma che zanzara era poi?